come è già successo nel 2019, abbiamo organizzato una piccola, diciamo, anteprima della tre giorni, 23, 24, 25. Faremo una nostra personale, insomma, come fratello, come comunità del fratello, come fratello resiste, posa della corona ai caduti all'incrocio tra via del Fratello e via Pietralata, e poi ci sarà uno spettacolo organizzato da Mercolello, quindi uno spettacolo per bambini che si intitola Cappuccetto Rosso Partigiano, e questo è, diciamo, un piccolo aperitivo. Ci sono appunto iniziative per bambini anche il 24 di aprile, che è domenica, e poi si arriva al 25 aprile con una giornata molto intensa. Allora, per, come dire, procedere con ordine, magari cominciamo dalla musica? Possiamo cominciare dalla musica, ci sono talmente tante cose da dire che, insomma, è inutile che adesso stiamo a leggerle tutte, però comunque per quanto riguarda la musica avremo due palchi, il principale in piazza San Rocco ed un altro organizzato da Barricata 71 al lato opposto della strada di fronte alla trattoria Fantoni, e poi ci sono, come ormai da tradizione, vari punti in strada in cui ci sono esibizioni semiacustiche o poco amplificate di gruppi, insomma, quindi c'è tanta musica diffusa anche, e anche due DJ set. Elencare tutti i gruppi che si esibiranno sarebbe difficile, però diamo un paio di nomi, dai. Beh, assolutamente. Allora, vabbè, innanzitutto il palco principale inizia con uno dei momenti, insomma, a tutti noi più cari, che è il coro dei bimbi, il coro dei bimbi resistenti, la mattina, dopo la posa della corona del 25 aprile. Successivamente, diciamo che sul palco ci sono gruppi che si alternano per tutto il giorno. Io voglio citare i Balotta Continua, che sono anche loro oramai degli amici di Fratello Resiste, e insomma noi ospitiamo sempre con molto piacere, e poi abbiamo il Rockabilly dei Basement Boppers, e per chiudere, in onore a noi quarantenni che siamo cresciuti a pane e combat folk, i Folk a Bestia. Ci sono anche tante iniziative che riguardano appunto anche l'attualità, la politica, vedo dalla cannabis alla guerra. Quindi, insomma, Fratello Resiste non è solo una festa di strada, è anche un momento per approfondire alcune tematiche di attualità. Assolutamente sì. Allora, vabbè, Fratello Resiste, come sua connotazione, ha sempre avuto quella di diciamo partire dai temi base, che sono l'antifascismo, il ricordo del festeggiamento della liberazione, ma coniugare, diciamo, le battaglie antifasciste all'oggi, quindi all'attualità, a quello che viviamo adesso. Il programma si costruisce attraverso un percorso fatto di assemblee pubbliche, di contatti e tutto quanto, in cui la strada, diciamo, si apre alla città e chiama raccolta tutte le forze antifasciste di sinistra. Siamo molto felici del fatto che sono state delle assemblee molto partecipate, e che nonostante noi tutti siamo, diciamo, in ansia per il grosso tema d'attualità che domina il presente, che è quello della guerra in Ucraina, nonostante ciò sono arrivate molte proposte di interventi e di iniziative riguardanti vari temi, sia cittadini che non cittadini, quindi tema ambientale, anche quelli che hai citato tu, c'è un'iniziativa sulla Palestina, c'è un'iniziativa sulle rivolte carcerarie, si è visto che c'era comunque molta voglia di tornare a portare in piazza e a dare voce alle tante battaglie che in questi anni sono rimaste un po' coperte, diciamo. Ovviamente una domanda te la devo fare, perché l'hai citata anche tu, la guerra in Ucraina, vediamo anche l'informazione mainstream italiana che spinge, spesso attacca anche l'Ampi è una delle tante realtà che coorganizza, no? Fratello Resiste, che messaggio il 25 aprile verrà mandato su questa guerra in Ucraina? Noi chiaramente siamo plurali, e quindi il messaggio sulla guerra verrà coniugato dalle tante realtà che porteranno i loro punti di vista, eccetera. Noi facciamo anche parte di un percorso che si è avviato a livello cittadino per affrontare la tematica. Sicuramente, ecco, se posso dire qual è il denominatore comune di tutto quello che verrà detto sulla guerra, è che non servono le armi, o comunque non sono un modo per arrivare alla pace, e sicuramente non vedrete sventolare bandiera della NATO in Fratello, ecco. mi fermo qui. Io ricordo che sulla pagina Facebook di Fratello Resiste, poi è possibile anche consultare il ricchissimo programma appunto completo dell'iniziativa. Grazie mille, ci vediamo il 25 aprile in piazza, anche perché non l'ho ancora detto ma ne approfitto, Radio Città Fujiko farà la diretta tutto il giorno dal palco di Piazza San Rocco. Esatto, quindi vi aspettiamo.